Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Riceve il cuore di un uomo che aveva avuto un infarto. Muore 48 ore dopo il trapianto. Piano per l'accoglienza dei migranti, alloggi e sanità, ma dovere di sapere la lingua e rispettare le donne. Jussoli, la legge sembra sfumare, anche Lorenzin si dichiara contraria, prosegue il dibattito sulla legge elettorale. Fincantieri, oggi a Lione il vertice bilaterale Italia-Francia, ottimismo dai due paesi sull'ipotesi di accordo. Catalogna da Rajoy, un appello alla calma, ma Barcellona accusa Madrid, vogliono i disordini. E nella Champions, dopo la vittoria del Napoli, stasera tocca a Roma e Juventus. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi vi trasmettiamo da Cersaie, da Bologna. Cos'è Cersaie? Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Bagno, dal quale abbiamo trasmesso molto in questi giorni, anche informazioni sullo stato del settore, come vi abbiamo ampiamente raccontato anche nei giorni scorsi. 349-238-6666 come sempre è il numero per i vostri sms e come sempre quando siamo in trasferta abbiamo qualche difficoltà a visualizzare i messaggi su WhatsApp e quindi usate i buoni, vecchi, classici sms. Andiamo in apertura sulla vicenda del trapianto. Un cuore fermo due volte nel petto di due uomini diversi. E questa la sintesi di quel che è accaduto tra Milano e Roma, accendendo la speranza per poi spegnerla subito dopo. Un uomo di 60 anni aspettava da tempo un trapianto per problemi cardiaci. I medici gli avevano stimato un anno massimo di vita. Per lui è arrivata l'attesa telefonata, un cuore disponibile, la corsa e il trapianto al San Camillo di Roma. Cuore nuovo che però, 48 ore dopo, si è fermato. L'autopsia ha confermato che l'organo del donatore era malato. Cuore di un altro uomo, un cinquantenne morto in una piscina del Milanese. Poco dopo che, appunto, il cuore, anche nel suo petto, aveva smesso di battere. I medici lo avevano fatto riprendere, ma i danni cerebrali ne avevano causato la morte. I controlli, però, avevano certificato post mortem una normale funzione cardiaca ed era stato dato così il via alla donazione dal San Raffaele di Milano. Ora il Centro Nazionale Trapianti difende la correttezza delle procedure. La ministro Lorenzin parla di un fatto inaccettabile, mentre l'inchiesta, ancora contro ignoti, è passata nelle mani della procura del capoluogo lombardo. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci faremo chiarire qualche punto più avanti nel corso di Effetto Giorno. Parleremo proprio col direttore del Centro Nazionale Trapianti per capire se e cosa può essere andato storto. Passiamo a parlare di migranti adesso, perché fa molto discutere in queste ore il piano che sta ipotizzando il ministro dell'Interno Minniti: lavoro e alloggio in cambio di rispetto delle regole e apprendimento della lingua. È un pezzo appunto di questo piano per l'accoglienza. Sentiamo. Dopo il codice di condotta per le ONG arriva il codice di condotta per i rifugiati. Il Ministero dell'Interno lancia il primo piano nazionale per l'integrazione con l'obiettivo di garantire un'ordinata convivenza civile. Il piano riguarda 74.853 stranieri in Italia ai quali è già stato riconosciuto il diritto di restare, o perché rifugiati o perché beneficiari di protezione internazionale. Stando alle linee guida principali del progetto diffuse dal Viminale, chi è accolto si impegna a rispettare la legge, condividere i valori della Costituzione, imparare la lingua italiana e rispettare il principio dell'uguaglianza fra uomini e donne. Per combattere il rischio di islamofobia, il piano raccomanda la trasparenza nei flussi finanziari per le moschee. In cambio, l'Italia si impegnerà ad assicurare a queste persone libertà di religione, accesso all'istruzione con 240 borse di studio, alla sanità, interventi che facilitino l'inclusione sociale, l'accesso alla casa e al lavoro. Non sono previste sanzioni per chi decidesse di non seguire queste linee guida. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre Valentina Furlanetto ha intervistato il sottosegretario agli interni in mansione. Sentiamo. Ci sono risorse che sicuramente vanno a convergere. Quella principale è quella del fondo FAMI, il fondo giusto appunto che si occupa delle migrazioni e dell'integrazione, perché la I finale sta appunto a indicare questo. Accanto a quello poi ovviamente sono altri fondi strutturali, in particolare quelli regionali che poi si trasformano in fondi nazionali. Poi ci sono anche ovviamente dei fondi nazionali, penso al fondo di coesione sociale che gestisce il Ministero del Lavoro, al Fondo Sanitario Nazionale che gestisce il Ministero della Salute. Sottosegretario, sento già levarsi l'obiezione, ci sono poche risorse per gli italiani, perché utilizzare risorse per corsi di formazione professionale per gli stranieri in Italia? Ma guardi, allora, intanto si tratta di rifugiati e di persone che sono già sul nostro territorio, quindi non possono essere abbandonate a se stesse, perché altrimenti il capitolo di spesa, diciamo così, cambierebbe, diventerebbe un altro, ma comunque ce ne dovremmo occupare, almeno fin tanto che avremo in Costituzione una norma generale che riconosce il diritto d'asilo. Oggi a Lione il vertice bilaterale Italia-Francia, nel quale, tra le altre cose, beh, probabilmente si parlerà anche di migranti, però al centro di tutto c'è la vicenda Fincantieri. Una giornata attesa che suggella mesi complicati di lavoro diplomatico per arrivare oggi nel tardo pomeriggio a Lione durante il bilaterale italo-francese a sciogliere molto probabilmente il riserbo sull'intesa tra le due aziende di cantieristica navale Fincantieri STX. Ci sono le premesse per arrivare a un accordo che tenga conto dei nostri legittimi interessi al tempo stesso di quelli della Francia, ha detto il premier Gentiloni alle Figaro. Il governo italiano ha sempre tenuto il punto, rifiutando qualsiasi altra soluzione che non vedesse Fincantieri al 51%. La società francese, prima di proprietà coreana, era finita all'asta e Fincantieri se n'era aggiudicati 2/3. Con l'elezione di Macron, però, l'Eliseo aveva esercitato il diritto di prelazione. Da lì la trattativa diplomatica e la maggioranza assoluta azionaria pretesa dall'Italia. La storia di Fincantieri non è isolata. Sul tavolo c'è anche il faldone di Vivendi Telecom Italia. Al momento bisogna capire, infatti, se Vivendi avrebbe dovuto informare il governo italiano prima di prendere il controllo di TIM e se ciò sia conforme alla legge italiana sul Golden Power. Un comitato tecnico lo sta verificando e si riunirà domani, il giorno dopo l'incontro tra Italia e Francia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato del piano Minniti sull'immigrazione, ebbene è proprio sullo Ius Soli, insieme alla legge elettorale, che si discute in questo momento all'interno della politica. Facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Dibattito sullo Ius Soli che prosegue nonostante il no del partito di Alfano al disegno di legge abbia di fatto affossato quasi definitivamente il suo percorso parlamentare per questa legislatura. Ricordiamo che senza i 24 senatori di Alternativa Popolare il provvedimento non avrebbe i numeri per passare in Senato. Le elezioni incombono e non vogliamo fare un regalo alla Lega, hanno spiegato ieri lo stesso Alfano e Lupi. Oggi, sempre da AP, il ministro della Salute Lorenzin aggiunge: il testo è una norma di civiltà, ma il realismo ci dice che non sarebbe passato, ma è un discorso, dice la Lorenzin, da portare come primo atto nella prossima legislatura. Partito Democratico ed MDP tuttavia non gettano la spugna, non ha dubbi il presidente De Morfini e dice: la fiducia è l'unico modo per approvare lo Ius Soli, la politica non si lasci guidare dai sondaggi. Altro capitolo, Simone, la legge elettorale, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato ieri sera il cosiddetto Rosatellum 2.0 come testo base della riforma. A favore hanno votato PD, Forza Italia, Lega e Centristi, contro invece Movimento 5 Stelle, MDP e Fratelli d'Italia. Il testo sarà in aula già alla Camera il 10 ottobre. In tema di alleanze, infine, oggi D'Alema ribadisce: mai con il PD, sarebbe un disastro. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. I dati dall'economia, innanzitutto la fiducia delle imprese che è ai massimi dal 2007. Prosegue la volata del clima di fiducia di consumatori e imprese. Dopo l'incremento registrato in agosto, certifica l'Istat, anche a settembre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è salito da 107,1 a 108 punti, toccando così il livello più alto da 10 anni. Un miglioramento intercettato in tutti i settori delle imprese, tranne i servizi. Aumento consistente, secondo i tecnici dell'Istat, anche per il clima di fiducia dei consumatori, salito da 111,2 a 115,5 punti. Sul fronte industriale, inoltre, il fatturato è lievemente diminuito a luglio rispetto al mese precedente, è aumentato del 3,8% su base annua, mentre gli ordinativi registrano un aumento modesto dopo il calo di giugno, un incremento del 10,1% rispetto a luglio 2016. A trainare fatturato e ordinativi è soprattutto il mercato estero. Il dato Istat sulla fiducia delle imprese, secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, invita a spingere sulla competitività delle imprese. Questo significa attivare investimenti, export e quindi occupazione, aggiunge Boccia. Non dobbiamo depotenziare questo momento importantissimo del paese, perché la crescita dell'industria è la crescita del paese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla crisi catalana. Ieri un appello alla calma da parte di Rajoy, ma la stessa Catalogna oggi ha dato una risposta piuttosto dura. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno. Situazione di massima tensione e incertezza in quest'ora in Catalogna, a soli 4 giorni dall'atteso referendum sull'indipendenza. Mentre i comitati per il sì stanno già preparando l'atto di chiusura della campagna, dopodomani a Montjuïc e una notte elettorale per domenica sera a Plaza Catalunya, regna la confusione su come si comporteranno le forze dell'ordine nella giornata referendaria. Il ministro dell'interno catalano Joaquim Forn ha accusato il governo spagnolo di puntare a provocare disordini per giustificare l'invio di migliaia di rinforzi di polizia. La vera incertezza regna soprattutto su chi garantirà l'ordine. Ieri la procura ha ordinato alla polizia autonomica e Mossos da Squadra di sigillare e recintare i seggi per vietare il referendum. Oggi i Mossos dovrebbero rispondere picche, portando come giustificazione possibili problemi di ordine pubblico. Questo allargherà ulteriormente il fossato che divide i due centri di potere, Barcellona e Madrid. A sparigliare ulteriormente le carte, l'annuncio di questa mattina del presidente della Generalitat Puigdemont, che ha convocato per domani la giunta per la sicurezza catalana per coordinare le forze dell'ordine domenica. La vicepresidente del governo spagnolo Sáenz de Santamaría si prepara al peggio, chiedendo unità ai partiti iberici a partire dal 2 ottobre, quando Barcellona potrebbe varare una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Nel pomeriggio attesa anche una dichiarazione dei vescovi spagnoli. È tutto. Grazie anche a Sergio Nava per questo aggiornamento. Mentre un rettore viene indagato in un'altra inchiesta che ha a che fare con la scelta delle persone che possono lavorare nelle università, il presidente dell'anticorruzione delinea un'ipotesi di soluzione per evitare che si verifichi un mercato dei posti da ricercatore o professore, come sembra suggerire l'inchiesta della Guardia di Finanza di Firenze. Sentiamo. Negli atenei italiani c'è un deficit etico. A dirlo è il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, commentando gli sviluppi dell'inchiesta di Firenze sui concorsi truccati. Con la ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, siamo al lavoro su un piano anticorruzione specifico per il mondo universitario, spiega Cantone, che tra le varie proposte avanza quella di inserire nelle commissioni universitarie componenti esterni al mondo accademico, un'idea che approfondisce. Diremo fra pochi giorni, assicura Fedeli. Probabilmente oltre a questo dobbiamo andare molto più in profondità e più alla radice. Siccome quello che stiamo costruendo come conferenza dell'università e per l'università italiana del 3 e 4 novembre lo stiamo costruendo con l'insieme dei rappresentanti dell'università, quella è la sede per fare una proposta più approfondita e più compiuta. Secondo quanto rivelato da alcuni quotidiani, nel frattempo a Napoli è stato indagato il rettore dell'università Suor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro. L'accusa è quella di aver favorito un figlio dell'ex ministro Zecchino nell'assegnazione di un posto da ricercatore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso di Ottaviano Del Turco, che si dimise, lo ricorderete, in seguito ad un'inchiesta sulla sanità nel 2008 da presidente della regione Abruzzo. Erano già cadute 2 accuse, quella per corruzione e per falso. Oggi è stata chiesta l'assoluzione da una delle altre. Non c'è la prova che un sodalizio illecito abbia gestito la sanità abruzzese. E questo ciò che sostiene la Procura Generale di Perugia, chiedendo l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere l'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco e degli altri imputati coinvolti nel processo bis sulla sanitopoli abruzzese in corso nel capoluogo umbro. Per tutti il magistrato ha chiesto di rivedere al ribasso le condanne già inflitte in secondo grado all'Aquila. Nel dicembre del 2016 la Cassazione aveva confermato la condanna di Del Turco per induzione indebita, ma aveva annullato con rinvio la condanna d'appello riguardante l'accusa più pesante, quella di associazione per delinquere. Un reato quest'ultimo contestato anche all'ex segretario generale della presidenza della giunta regionale Lamberto Quarta e all'ex capogruppo della Margherita in consiglio regionale Camillo Cesarone. Alla Corte d'Appello perugina spetta dunque il compito di riesaminare gli elementi di prova del reato associativo a carico dei 3 imputati, valutare la sussistenza o meno del reato di associazione e eventualmente ricalcolarne la pena. La decisione della Corte Umbra potrebbe arrivare in giornata. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso veniamo allo sport, che ci parla soprattutto di Champions League in questo momento, dopo la vittoria del Napoli di ieri. Stasera tocca a Roma Juventus. Dario Ricci, ciao. Ciao Simone, proprio ripartiamo per questa seconda giornata di Champions, dopo aver archiviato il bel successo del Napoli sul Feyenoord, un 3-1 siglato tutto dal tridente partenopeo che ha così omaggiato l'infortunato lungodeggente Arkadiusz Milik. Ma Sarri si è arrabbiato parecchio per quel gol degli olandesi, arrivato praticamente a tempo scaduto per una leggerezza della difesa azzurra. Napoli che comunque si rilancia a 3 punti, raggiunge lo Shakhtar, ieri battuto dal Manchester City 2-0 nell'altra gara del gruppo F inglesi, che guidano con 6 punti. Oggi, come dicevi, tocca la Roma alle 18 in campo a Baku, capitale dell'Azerbaigian, contro il Karabakh, lo ricordiamo, squadra all'esordio nella massima competizione continentale. Nella prima sfida a Londra contro il Chelsea gli azzeri ne hanno presi 6, ma proprio per questo è partita da non fallire per la Roma, che ha pareggiato nella prima sfida in casa con l'Atletico Madrid, Atletico Madrid che ospita oggi il Chelsea. E poi alle 20:45 caccia ai 3 punti anche per la Juventus, che ospita i greci dell'Olympiakos. Ricorderete il 3-0 subito 2 settimane fa a Barcellona dai bianco neri, per questo la vittoria è imprescindibile, direi, e c'è ancora il dubbio Higuain, che Allegri probabilmente in cuor suo ha già sciolto, Simone, ma non si sa se toccherà al Pipita la seconda panchina consecutiva oppure se ritroverà la maglia da titolare. Comunque tutti i temi che dalle 14 saranno oggetto della chiacchierata degli amici di tutti i convocati. Ottimo, grazie Dario Ricci anche per questo aggiornamento e questo punto sulla giornata calcistica e sportiva. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Puntata ricca, toccheremo il tema, questa vicenda incredibile di un trapianto di cuore avvenuto ad un uomo che è morto 48 ore dopo. Il cuore veniva da un uomo che aveva avuto un infarto, di un'altra storia che sta facendo molto discutere, la vicenda dell'uomo che a Legnano Sabbiadoro ha ucciso la sua fidanzata, uccise la sua fidanzata, ebbene va ai domiciliari, seppur essendo reo confesso, dopo appena 2 mesi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e non per i messaggi su WhatsApp oggi, perché siamo in trasferta e non è disponibile. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questa vicenda di un uomo che ha ricevuto il cuore per un trapianto ed è morto 48 ore dopo il trapianto, appunto. Il cuore forse era malato. Del piano per l'accoglienza dei migranti, sul quale torneremo più avanti anche col presidente della regione Veneto Zaia, di Ius Soli e di legge elettorale, dell'incontro su Fincantieri e di Catalogna. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da una vicenda che sta facendo molto discutere. È il 31 luglio, di quest'anno, e Francesco Mazzega, 36 anni, strangola e uccide la sua fidanzata, una ragazza di 21 anni, Nadia Orlando. Poi vaga tutta la notte con il corpo di lei nella macchina, dopodiché si costituisce. È evidentemente un reo confesso. La vicenda che sta facendo discutere qual è? È che in attesa del processo l'uomo non resterà in carcere, ma gli sono stati concessi domiciliari con il braccialetto elettronico ad appena 57 giorni dai fatti. Per parlare di questo abbiamo in linea con noi Francesco Petrelli, che è segretario dell'Unione delle Camere Penali. Petrelli, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Abbiamo chiamato proprio voi, che in qualche modo rappresentate gli avvocati, proprio per aiutarci a capire un po' meglio che cosa rappresenti questo. Giusto per essere chiari anche con gli ascoltatori, perché ieri ne ho scritto su Facebook e qualcuno ha criticato la cosa. La perplessità non viene tanto dal fatto che possano essere in sé concessi domiciliari ad un reo confesso, quanto il fatto che in questo paese l'utilizzo della custodia cautelare in carcere È stato molto forte, spesso c'è stato un abuso della custodia cautelare in carcere, e lascia perplessi il fatto che magari rimangano in attesa di processo in carcere persone che hanno provato a vendere 10 dosi di hashish, magari per 3 anni, 4 anni, e poi un reo confesso di un omicidio invece dopo 2 mesi si possa fare i domiciliari in attesa del processo. Petrelli, come si può rispondere a questa perplessità che è mia innanzitutto, lo dico, eh? C'è dubbio, la perplessità è più che legittima, però il caso che voi state esaminando in realtà non deve creare particolare allarme o preoccupazione. Bisogna ragionare sul fatto che il nostro sistema, come d'altronde sistemi giudiziari degli altri paesi occidentali in genere, prevedono una custodia cautelare, quindi non una carcerazione preventiva, nel senso che chi viene arrestato per fatti più o meno gravi non anticipa ovviamente la pena prevista per la sua futura condanna, ma viene mantenuto in carcere esclusivamente se il giudice ritiene che vi siano degli elementi concreti ed attuali delle esigenze cautelari, il pericolo di fuga, sì, la reiterazione del reato, che possano cancellare. E il rischio di inquinamento delle prove, esatto, delle prove, certo. È chiaro che tutto questo dipende da valutazioni che vengono fatte di volta in volta. È possibile che queste esigenze cautelari siano ravvisate in relazione a fatti di modesto spessore criminale. Lei ha fatto l'esempio di un piccolo spaccio, ma può darsi che quel singolo imputato rimesso in libertà ricominci immediatamente a spacciare perché è uno spacciatore di professione, mentre sì, al contrario chi si sia trovato per sventura nella vita a commettere un reato pur grave ma in maniera assolutamente occasionale vedrà nel suo giudice il riconoscimento dell'assenza di esigenze cautelari e quindi l'adozione magari di misure gradate. Però è vero anche, sì, però è vero anche, Petrelli, dall'altra parte, che ovviamente tutto questo dipende anche dallo stesso giudice, dall'interpretazione che ne dà il giudice. No? Sì, però diciamo che. E quindi la disparità anche in questo, quello che dico è che la disparità anche in questo senso ci può essere. Ma non c'è dubbio che l'errore può sempre covare in valutazioni che sono delicate e discrezionali, questo è indubbio. Come è indubbio quello che lei prima sottolineava, il fatto cioè che a volte si operano delle distinzioni a seconda dei periodi, a seconda dell'allarme sociale rispetto a questo o quel fenomeno criminale. Abbiamo visto e vediamo tuttora casi gravissimi di abuso della custodia cautelare sulle quali magari si fa meno attenzione mediatica, mentre l'attenzione si rivolge più ai casi in cui la custodia non c'è o viene attenuata come in questo caso. Però noi dobbiamo stare anche un poco ai fatti. Intanto sì, ragioniamo in termini diciamo di diritto comparato. Succede così in tutti i paesi, non è che si va a processo sì, anche se gravati da prove schiaccianti che non necessariamente sì, corrispondono alla confessione, ma si è liberi e si va liberi al processo. Succede in altri paesi che addirittura pagando una cauzione, quindi versando del denaro, si recupera la libertà. È uno strumento sì, che nel nostro paese non è più da tempo previsto. Però tornando all'idea dell'allarme, ci sono dati recentissimi diffusi dall'ONU dai quali risulta che in Italia si commettono meno omicidi che in paesi che noi crediamo essere pacifici e immuni dalla criminalità. Si commettono meno omicidi che in Svizzera, in Norvegia, in Finlandia. Qua stiamo allargando il discorso, io Petrelli mi riferivo semplicemente all'aspetto giuridico, stiamo allargando il discorso e su questo ha ragione, cioè a volte c'è troppo. Volte dimentichiamo, no? Facciamo prevalere che abbiamo livelli di sicurezza maggiori rispetto a quella che invece è la pericolosità vera dei problemi. La ringrazio, grazie a Francesco Petrelli, segretario dell'Unione delle Camere Penali. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, bentornato ai nostri microfoni, salve. Ci sente? No, evidentemente non ci sente Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Vediamo se riusciamo a recuperarlo con lui. Volevamo parlare innanzitutto del piano Minniti, perché in parte coinvolgerà le regioni. Questo piano che, come abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, prevede alloggi, sanità e scuola nel piano per i profughi, a patto che vengano rispettate una serie di condizioni, come per esempio la conoscenza della lingua, l'apprendimento della lingua e dall'altra parte per esempio dei corsi per insegnare ad alcuni il rispetto delle donne. Vorrei sapere, abbiamo recuperato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Buongiorno. Zaia, dunque, bentornato, eccoci qua. Le volevamo chiedere proprio innanzitutto una sua valutazione, perché poi ovviamente le regioni verranno coinvolte da un piano di questo genere. È un piano che insomma, che, come si diceva, impone anche degli obblighi tanto ai profughi quanto ai richiedenti asilo. Che, qual è la sua valutazione? Da presidente di regione e da... Mi sono perso l'argomento perché io non ero collegato. Non so di sì, si è scollegato. No, stavamo parlando di questo piano che è stato annunciato oggi dal ministro dell'interno Marco Minniti. È un piano per l'integrazione che prevede alloggi, sanità e scuola, ma dei doveri per quanto riguarda la conoscenza della lingua, il rispetto delle leggi e naturalmente il rispetto delle donne, quindi dei corsi specifici. In sostanza, un piano che preveda una sistematizzazione più su base locale, meno affidata se vogliamo alle cooperative, alle prefetture e via dicendo. Vorrei sapere qual è la sua valutazione, perché poi vi troverete nel concreto a gestirlo voi e i comuni e i sindaci. Ma guardi, mi faccia capire, noi praticamente accogliamo tutti e dopo dobbiamo accollarci le spese per avviare un progetto di educazione per coloro che non hanno ancora capito che le donne non debbono essere importunate piuttosto che imparare la lingua o quant'altro. Io penso che andiamo al suicidio con questo sistema, ma non lo dico perché fa parte della mia indole sparare su questo tema. Penso che gli immigrati noi dobbiamo accoglierli nella misura in cui abbiamo le potenzialità per accoglierli, e quindi parlo di lavoro. In questo momento abbiamo tanti disoccupati italiani, anche nuovi italiani che non trovano lavoro, e dall'altro la concretezza di dire che tutta l'Africa in Italia non ci può stare. Arrivano 200.000 persone all'anno da quei paesi, l'80% di questi non sono profughi. Mi chiedo per quale motivo dovremmo ancora continuare con questa musica. Sì, in realtà gran parte dei fondi verrebbero dall'Europa, Zaia, e dall'altra parte appunto sarebbe indirizzato prevalentemente a quelli che sono riconosciuti come degni della protezione internazionale. Forse su questo ci potreste stare, dico non solo come presidente della regione, ma anche come partito. No, guardi, il fatto che i fondi vengano dall'Europa sono sempre soldi nostri, perché anche questa storia va chiarita. Non è che l'Europa è il Babbo Natale dell'Italia o di qualche altro Stato membro. Stiamo dirottando risorse per attività che potremmo dedicare a chi magari abbiamo già in casa e ha difficoltà a sbarcare il lunario. Ricordo che in Italia il 10% della popolazione vive al di sotto del soglio di povertà. E quindi è un no piuttosto netto, mi sembra di capire, a quest'idea di certo. Minniti. Infine Zaia, le vorrei fare una domanda sui vaccini, perché ieri è arrivata la decisione, il parere del Consiglio di Stato sulla normativa in materia di obbligo vaccinale, ha dato il via libera all'obbligo vaccinale anche nelle scuole dell'infanzia, in risposta in realtà ad un quesito proprio suo, insomma della Regione Veneto. Come valuta la decisione del Consiglio di Stato? Ma guardi, con assoluto rispetto, è stata montata una polemica ad arte. I nostri tecnici avevano proposto di far fare i bimbi dai 0 ai 6 anni, mi permetto di spiegarlo, non vaccinati, non fino a marzo come prevede il governo, adesso gliela semplifico, ma far finire l'anno scolastico. Siccome c'è stato un dibattito, a quel punto abbiamo interpellato per un'interpretazione autentica della norma il Consiglio di Stato, che non ha emesso sentenza come qualche giornale dice oggi, ha detto che i bimbi debbono andarsene a casa se non sono vaccinati a marzo, punto. Noi non siamo contro i vaccini, non abbiamo mai fatto campagne contro i vaccini, facciamo campagne per la vaccinazione e il modello del Veneto è riconosciuto come virtuoso da tutta Europa. La ringrazio, grazie Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi subito dopo dovremo riuscire a parlare della vicenda del trapianto, quella che vi abbiamo raccontato in apertura di trasmissione. Dovremmo poter fare col direttore del Centro Nazionale Trapianti, che stiamo cercando di raggiungere più o meno da una ventina di minuti, e vedremo se riusciremo a beccarlo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Riceve il cuore di un uomo che aveva avuto un infarto, muore 48 ore dopo il trapianto. Piano per l'accoglienza dei migranti, alloggio e sanità, ma dovere di sapere la lingua e rispettare le donne. L'incontro che ci sarà oggi tra Italia e Francia su Fincantieri si va verso un 50% e 50% di STX, ma Fincantieri sarà in maggioranza per 12 anni. Jussoli, la legge sembra sfumare, anche Lorenzin si dichiara contraria mentre prosegue il dibattito sulla legge elettorale. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per iniziare questa seconda parte della trasmissione parlando e tornando sull'inchiesta sull''ndrangheta che ieri ha investito in realtà prevalentemente la Lombardia, perché ci sono state 27 misure cautelari, 24 di queste appunto proprio in Lombardia. Come vi abbiamo raccontato, è indagato un uomo di Forza Italia, un consigliere regionale di Forza Italia, Mario Mantovani. È stato arrestato il sindaco di Seregno a testimonianza di una penetrazione della criminalità organizzata calabrese in Lombardia, che è sempre più forte. Tra gli altri spunti lanciati ieri, al di là dei grandi titoli ovviamente che riguardano i politici e l'eventuale collusione con la politica, che ovviamente sarà tutta da provare, ci sono dei racconti che troviamo oggi sui giornali, soprattutto sui giornali locali dell'area milanese, e sono dei racconti che ci dipingono una realtà lombarda nella quale alcune cose avvengono esattamente come avvengono nel sud. Tra le altre cose, a Cantù, nella piazza centrale, pestaggi immotivati ai danni di avventori di locali pubblici e atti di prevaricazione, luoghi nei quali agiscono nipoti di boss che poi hanno la base in Calabria. Gian Antonio Girelli è presidente della Commissione Speciale Antimafia Regione Lombardia e coordinatore regionale di avviso pubblico. Innanzitutto buongiorno Girelli. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata proprio per aiutarci a capire un po' meglio questa cosa. Ne abbiamo in parte parlato ieri. Si tende a ritenere che la penetrazione della criminalità organizzata nelle zone del nord, come il Veneto, come la Lombardia, sia soprattutto una penetrazione economica, nel senso che arrivi dotato di una grande liquidità, spesso derivante dal traffico di droga, e sei in grado di impossessarti letteralmente delle aziende oppure di intervenire magari attraverso l'usura. Ma difficilmente si pensa che il tipo di presenza della criminalità organizzata al nord possa avere questa dimensione, questo tipo di dimensione, un tipo di dimensione anche di strada. Invece Girelli sembra essere così. Io credo che bisognerebbe fare memoria delle parole di Falcone, quando diceva: prima arrivano loro con i loro soldi, poi con i loro metodi. E noi tendiamo sempre a sottovalutare il fenomeno in Lombardia. O meglio, siamo passati dalla fase della negazione a quella della consapevolezza. Non abbiamo ben presente cosa significa reagire. E reagire significa mettere in atto tutta una serie di capacità di lettura, cogliere gli avvenimenti che capitano nel nostro territorio per quelli che sono e chiamare per nome le situazioni. Giustamente lei diceva, pensiamo sempre che la mafia in Lombardia sia solo penetrazione nel tessuto economico, e lo è sicuramente, anzi io credo che più che mai la mafia lavorerà in territori come il nostro, nel nord del paese piuttosto che in Europa, ponendosi degli interrogativi e delle questioni di non facile soluzioni. Ma mafia significa anche un controllo capillare del territorio, e riprodurre in territorio lombardo, soprattutto in piccoli e medi centri, quello che è l'organizzazione del territorio di provenienza è uno degli obiettivi, perché ci si dimentica troppo spesso che mafia non è solo delinquere, non è solo commettere reati e arricchirsi in maniera fraudolenta, è anche voler imporre un controllo sociale del territorio su cui opera. Oserei dire che soprattutto per l''ndrangheta è difficile capire se conti di più l'arricchimento o il controllo del territorio dove è insediata. E questo è uno spunto che ci porta ad un altro pezzo dell'inchiesta di ieri, che pezzi di inchieste passate che hanno riguardato la presenza della criminalità organizzata in Lombardia e non solo. Si racconta addirittura di imprenditori che per riscuotere i crediti si sarebbero rivolti alla criminalità organizzata, quindi utilizzandola come una sorta di Stato, no? Sì, indubbiamente, riscossione crediti oppure attingere a finanziamenti che non si sono riusciti ad ottenere attraverso i canali ufficiali del appunto, sistema bancario e finanziario. E questo fa riflettere laddove non sempre la mafia che cerca l'impresa, ma sono alcuni imprenditori che cercano la mafia, pensando di poterla utilizzare ad uso consumo, dimenticando che è semplicemente un passepartout per farli entrare, dopodiché le regole le dettano appunto i mafiosi. E qui la necessità anche di una lettura che riguarda il mondo dell'economia nel suo insieme, da parte del mondo dell'impresa piuttosto che del lavoro. Sulle istituzioni rimane molto da dire, ovviamente, non è voler scaricare il problema, però la necessaria consapevolezza, perché il sistema mafioso è un sistema politico e sociale. E ci deve essere una capacità di risposta politica, ma ci deve essere anche una capacità di risposta della società nel suo insieme, altrimenti si rischia davvero di fallire nell'obiettivo. Ci scrive un ascoltatore via SMS, diciamo più o meno dall'area lombarda, ci dice: all'Imbiate i calabresi di San Luca avevano 4 bar e adesso li hanno venduti ai cinesi. È un po' a dirci questa cosa, che in realtà il controllo sociale che possono esercitare i singoli cittadini in zone nelle quali la penetrazione della mafia fino, diciamo, una ventina d'anni fa non era così forte è molto efficace, Girelli. Come si può sfruttare questa cosa? Ma indubbiamente la consapevolezza deve portare a comportamenti, perché indubbio scegliere dove fare i propri acquisti, che locali frequentare, fare in modo che le associazioni di categorie tengano i riflettori puntati verso i loro associati, individuino e proprio isolino comportamenti scorretti, sono strumenti necessari, così come il controllo deve essere sempre di più affinato. La banalizzo con un esempio: non serve più soltanto andare a controllare gli scontrini non fatti, l'evasione è e rimane un reato gravissimo, bisogna sempre di più andare anche a scoprire le fatture, gli scontrini, le ricevute fatte da attività che non hanno clienti, ovviamente è semplicemente riciclaggio. Da questo punto di vista il cambio continuo, per esempio, di gestione di attività o di proprietà delle attività sì, non possono dovrebbe essere vissuti come un semplice esatto, movimento. Deve insospettire, perché deve insomma insospettire. Chiunque viva in una città, anche in una grande città, e vede questi cambi continui con rinnovo completo dei locali ogni 2 anni, un pochino qualche perplessità gli viene sempre. Da dire che la colpa in territori come i nostri sì. È una maniera diversa di concepire l'omertà, oserei dire l'omissione. Bisogna essere preparati, bisogna conoscere, specie chi ha ruolo pubblico, deve rendersi conto che avere le capacità, proprio le chiavi di lettura, è indispensabile, perché altrimenti sul non rendersene conto, o a volte anche far finta di niente senza arrivare alla collusione, chiaramente che purtroppo c'è, perché anche quello è un tema che andrà affrontato, è indispensabile. La ringrazio, grazie a Gian Antonio Girelli, Presidente della Commissione Speciale Antimafia della Regione Lombardia e Coordinatore di Avviso Pubblico. Invece non ci ha risposto, ma probabilmente sarà anche subissato di telefonate in questo momento, Nanni Costa, che è il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, che avremmo dovuto avere in diretta. E va bene, però la posizione del Centro Nazionale Trapianti ve l'abbiamo fatta sentire anche nel servizio che abbiamo dato all'inizio, se ve lo siete perso c'è sempre il podcast. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.